Quanta paura c'è da avere effettivamente? È quello che si chiedono un po' tutti. Salgono le vittime, salgono i contagiati, mentre l'Italia attende che atterri l'aereo con a bordo i nostri connazionali provenienti da Wuhan, epicentro del coronavirus. E mentre si cerca un vaccino, il contraccolpo economico e finanziario inizia a sentirsi, le borse cinesi perdono oltre l'8%, mentre a fermare le attività, almeno fino al 10 febbraio, sono le aree della Cina che valgono messe insieme l'80% del PIL. Ore di paura si sono vissute ieri a Londra, ma per tutt'altro motivo. Un uomo già sorvegliato speciale per questioni legate al terrorismo ha accoltellato dei passanti. Londra, che avvia i negoziati con Bruxelles, i cui contorni dovrebbero essere chiariti oggi da Boris Johnson nel suo discorso programmatico in Parlamento, un discorso che si prospetta piuttosto duro. In Italia la maggioranza va in tensione sulla prescrizione, mentre il mondo dello sport guarda a Sochi, dove Federica Brignone e Sofia Goggia mettono a segno una doppietta nel Super G. Per il resto, in Serie A, classifica immutata e immutate polemiche sulla Juve e sui rigori. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare. "24 Mattino" di Simone Spezia. In questo lunedì 3 febbraio alle 6:31 minuti e 23 secondi inizia la settimana di 24 Mattino con Carmelo Lauricella in regia, Giorgio De Luca in assistenza in redazione e con voi naturalmente al 349-238-6666 per gli sms, i messaggi WhatsApp, audio. La vostra voce ci fa piacere sentirla. Care ascoltatrici, cari ascoltatori, buon inizio di settimana e buona settimana da Simone Spezia. Ci siamo. Siamo anche in diretta, come sempre, sulla nostra pagina Facebook. Ci trovate su Instagram, l'account è 24 Mattino, al quale, come sempre, vi chiediamo di mandarci le vostre foto, le foto del... di quello che vedete dalla finestra quando fate colazione, di quello che vedete dal finestrino, anche delle vostre tristi macchinette del caffè, un po' come le nostre, insomma, a costruire questo racconto collettivo degli ascoltatori di Radio 24 al loro risveglio, o quasi. O al loro ritorno a casa, c'è un sacco di gente che lavora di notte e a quest'ora magari è sulla via di casa. Ci siamo anche per voi e anche su Twitter, 24 Mattino come sempre. Chiede Giovanni, già prima che iniziasse la trasmissione è partito, cosa dobbiamo pensare se da un lato ci dicono che è tutto sotto controllo e dall'altro bloccano i voli, dichiarano emergenza sanitaria, mettono in quarantena decine di milioni di persone, non è che la situazione è più grave di quello che ci vogliono farci credere? Dice Giovanni. Allora, non lo sappiamo. Diciamo che non ci sembra il caso di spargere il panico, visto soprattutto quello che sappiamo fino adesso di questo coronavirus. Detto ciò, esattamente per venire incontro a questa esigenza di informazione, oggi dedicheremo ampio spazio a tutto questo, lo faremo alle 6:45 ancora con Sergio Brusin, che è capo della sezione di risposta epidemica del Centro Europeo di Prevenzione e Controllo delle Malattie ed è a Stoccolma. Lo faremo poi col capo della Protezione Civile e delegato all'emergenza alle 8:20 con Maria Latella e poi col ministro Roberto Speranza, che sarà il nostro ospite. Insomma, l'esigenza adesso è un'esigenza di informazione, di capire qualcosa di più, di non farsi spaventare eccessivamente. La notizia la conoscete, all'ospedale Spallanzani hanno isolato il virus. Da segnalare che, al di là di un po' di trionfalismo che tutto sommato ci può anche stare, non siamo il primo paese ad aver isolato il virus. L'hanno naturalmente già fatto in Cina, l'hanno fatto in Australia, l'hanno già fatto anche in Francia. Detto ciò, è importante perché più team lavorano su questo, più è facile evidentemente trovare il vaccino, più lo scambio di informazioni è veloce. Così proprio il ministro Speranza sull'isolamento del virus. In queste ore all'Istituto Spallanzani è stato isolato il virus coronavirus, quindi questo nuovo virus. È una notizia molto importante, di portata globale direi, che testimonia ancora una volta l'eccellenza dei nostri ricercatori, delle nostre squadre, del nostro Servizio Sanitario Nazionale. Aver isolato il virus significa avere molte più opportunità, molte più chance di poterlo studiare, capire e di poter verificare meglio che cosa si può fare per contrastarne la diffusione. E Maria Capobianchi, lo Spallanzani, guida di fatto il team che ha isolato questo virus e così spiega. In questo caso si tratta di un virus nuovo, di un virus che hanno ancora pochissimi centri, che isolati in Cina pochi giorni, poche settimane fa, e non è stato distribuito dalla Cina, isolato in Australia e poi in Giappone, è stato preso. Cioè, voi siete riusciti a isolarlo su quei due pazienti malati? I nostri, che avete i primi qua, nostri, no? I primi nostri due, appena due cinesi arrivati. Due cinesi, gli unici due sui quali a tutt'oggi è stata fatta diagnosi in Italia. Quei campioni messi in coltura hanno generato il virus che si replica, e questo si chiama isolamento virale. Queste dunque le notizie che arrivano dallo Spallanzani. Fatemi salutare innanzitutto Alvaro Moretti, vice direttore del Messaggero. Ciao Alvaro, bentornato, come stai? Bene? Grazie, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Allora, va bene, allora questa sicuramente è una buona notizia, dico a prescindere, no, dal fatto che lo Spallanzani sia stato il primo, il secondo, il terzo, il quarto, poco importa, più team ci lavorano, prima si arriva al vaccino. Quello che registriamo, caro Alvaro, diciamo è complessivamente un po' di psicosi su questa storia del coronavirus. Ma quello è un po' inevitabile, direi, ovviamente. Fino a quando non abbiamo chiaramente poi la cura, diciamo, il vaccino, no? per debellarlo, e devi lavorare, diciamo, poi sui sintomi quando questi si manifestano, insomma, come nel caso dei due cinesi che sono ricoverati a Roma. Però diciamo che se uno parte dai dati di realtà, io prima sentivo uno degli interventi dei tuoi lettori, no? Ci stanno negando qualcosa, insomma, diciamo, di sicuro. Questo l'abbiamo provato nei giorni scorsi, che stiamo raccontando tutti i giorni, oggi lo raccontiamo con la denuncia che viene fatta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. C'è sicuramente un sacco di gente che non sa bene per quale motivo, insomma, tende a mettere in giro notizie false, insomma, comunque ad alimentare poi questo tipo di naturale paura che abbiamo tutti di fronte a qualcosa che non sappiamo come combattere qualora dovessimo poi trovarci a confrontarci a un virus di questo genere, per cui è così importante, sono così importanti notizie come quella di ieri. Per noi è molto importante, devo dire, avere un po' il conforto di sapere, per esempio, da noi romani, ecco, per esempio, ma noi italiani, che c'è un centro come lo Spallanzani, e che è giusto, secondo me, era giusto, secondo me, oggi raccontare. L'abbiamo fatto in tutte le maniere, già da ieri, raccontando queste ricercatrici, insomma, no? Che una addirittura una ricercatrice precaria, quindi racconta molto bene dell'Italia di oggi, la capacità di una persona che guadagna 1.500 euro al mese, fino a quando adesso speriamo gli confermino il suo contratto, e che riesce però ad arrivare a un risultato così importante. Sì, adesso improvvisamente, Alvaro, adesso improvvisamente si legge adesso sarà stabilizzata. Ragazzi, cioè, ci mancherebbe altro. Sì, proprio una persona questa, diciamo, questo team è un team che comunque ha lavorato con grande efficacia anche su altri virus terribili come quello dell'Ebola, insomma sono persone che hanno una grandissima specializzazione, della quale ci ricordiamo ovviamente in questi momenti, e in questi momenti però anche sottolineiamo che abbiamo delle strutture a presidio che noi dobbiamo raccontare, oggi secondo me abbiamo il dovere di raccontarlo, e una volta tanto anche il dovere di raccontare una buona notizia, no? Come dicevi tu giustamente. Eh sì, decisamente, decisamente. La psicosi. Dov'è che era, Giorgio De Luca, dov'è che era ieri Vazzanicchi? A Domenica Inn, sentiamola, va. No, un po' di preoccupazione. No. Guarda, ti dirò che ieri arrivando in treno, sì, sono arrivata alla stazione, ho sentito delle urla tremende. Dico, oddio, qui si è fatto male qualcuno. Allora, una scena incredibile. C'era una signora cinese che è scesa dal treno e tutti gli inservienti dicevano si fermi, ma e la tenevano lontano con le mani, stia lì ferma, e questa che urlava, poveraccia, che magari non c'entrava nulla, ma adesso c'è un po' la psicosi. Io quando vedo un cinese sorrido, ma me la do a gambe. Eh no, ragazzi, oh, che devo dire. Vabbè, io venerdì ho mangiato cinese, ve lo dico, Io venerdì ho mangiato cinese in serenità, proprio tranquillamente, no? Alvaro oggi raccontava addirittura dei cinesi d'Italia che si sono automessi in quarantena, cioè gente che decide di chiudersi in casa, lo raccontate oggi sul Messaggero per... Ma non solo in casa propria in realtà, cioè che addirittura si stanno organizzando, devo dire secondo me con un grande gesto di civiltà, di organizzare addirittura appunto un imprenditore che ha affittato un intero albergo, perché il problema loro ovviamente lo sentono, perché è chiaro che questo tipo di atteggiamento intorno a loro lo percepiscono, le persone che fino a ieri li vedevano passare con indifferenza oggi ovviamente li notano, e oggi cominciano le scuole, perché ricordiamo appunto che quando il caso a Roma si è manifestato in maniera conclamata, credo fosse venerdì sera, quindi diciamo oggi c'è il rientro alle scuole, ci sono un sacco di bambini, in tante città ci sono le Chinatown, che comunque è una comunità importante, credo che siano 50.000 imprese cinesi che lavorano in Italia, appunto dai piccoli negozianti ai ristoratori oppure ai grandi importatori, quelli che comunque hanno rapporti continui dal punto di vista economico con il nostro paese, quindi stiamo parlando di una comunità importante, molto radicata da tempo, e loro stanno facendo una cosa che tra l'altro viene anche sottolineata, diciamo, per esempio dai presidi con un elemento di favore, perché oggi di fronte al rientro a scuola, per esempio, immagino che potrebbero esserci degli equivoci e delle situazioni comunque ancora, no? Tipo quelle che ha raccontato la Zanicchi, quindi, e credo che questa cosa che abbiamo raccontato ieri ci sembrava molto importante sottolinearla, perché comunque anche loro, tra di loro, che sono una comunità, come sapete, molto forte, anche abbastanza stretta nella propria realtà, si cerca di organizzare in qualche maniera per evitare il problema a se stessi e anche agli altri. Certo, ci scrive un ascoltatore, dice: come mai i Novax non si sentono? Già, dove sono finiti i Novax? Improvvisamente, dove sono finiti? Chissà dove sono finiti. Vabbè, tra un attimo torniamo sul coronavirus, con informazioni, a parlare anche con uno scienziato, farci raccontare qualcosa in più delle ultime, ovviamente, delle ultime cose che sappiamo. E c'è anche un po' di politica. Lo scontro sulla prescrizione, ancora una volta quest'idea di maggioranza che traballa, io non sono convinto che traballi, di certo le parole di Renzi di ieri sono piuttosto dure, possiamo sentirle, va. Dico al ministro Bonafede: fermati finché sei in tempo, perché noi in Parlamento votiamo contro la follia che avete fatto sulla prescrizione. Patti chiari, amicizia lunga, non dite che non ve l'avevamo detto. Noi, tra gli interessi e le poltrone e l'ideale e la civiltà giuridica, scegliamo l'ideale e la civiltà giuridica. Questo deve essere chiaro. E non avete i numeri senza di noi al Senato, forse neanche alla Camera. Rifletteteci bene. E voilà, Alvaro, eccola qua, il tema della prescrizione. Io sinceramente, post Emilia Romagna, che questa cosa possa condurre ad una crisi di governo non lo credo un granché, non so come la vedi tu. Ma sì, diciamo, sicuramente è un tema che sta creando veramente un'attenzione molto forte, e che da parte di chi soprattutto in questo momento si trova un po' in mezzo, il PD e Conte, ovviamente sta in qualche maniera animando la volontà di trovare un punto di caduta possibile. Diciamo che dopo anche i giorni dell'apertura dell'anno giudiziario, credo che il ministro Bonafede una considerazione la debba fare rispetto a questa riforma che i 5 Stelle tengono alta come una bandiera, forse l'unica in questo momento, però è una bandiera che li isola moltissimo, perché non c'è stata una sola voce nel mondo della giustizia che lui dovrebbe appunto amministrare, che in qualche maniera abbia dato un segnale positivo nei confronti di questa riforma. I giudici, gli avvocati, le altre forze politiche, tutte le realtà che compongono questo mondo, mi sembra che stiano sottolineando tutti i problemi che questa riforma porta e porterà al mondo della giustizia, che vanno ovviamente dal profilo di costituzionalità, insomma, messo in dubbio dal procuratore generale di Milano, a tutti gli effetti che hanno portato per esempio il Presidente della Corte d'Appello di Roma l'altro giorno a chiedere una sorta di mini amnistia per l'ingestibilità di quello che poi comporterà questa prescrizione lunga e con tutti i problemi di cui abbiamo appena detto. Cioè l'isolamento in questo momento del ministro Bonafede, di, diciamo, di quelli che nel Movimento 5 Stelle vogliono difendere a tutti i costi questa riforma bandiera, secondo me una riflessione la dovrebbe porre, perché non ci sono soltanto, diciamo, tra virgolette, gli avvocati, ci sono i giudici, quelli che dovrebbero in qualche maniera essere felici o contenti di questa riforma, e invece non lo sono affatto. Sì, ci sono pezzi di magistratura inquirente, tra l'altro, che non sono soddisfatti di questa riforma, esatto. il che è tutto dire, insomma, no? Perché un conto poi è la magistratura giudicante, un conto è la magistratura inquirente, che su questa è un'attenzione ancora maggiore. Ci scrive un ascoltatore via SMS: vi reputo una delle trasmissioni più intelligenti della radio, per favore evitate di passare pezzi di Domenica in, che sono un insulto all'intelligenza umana. No, non è vero, sono un insulto all'intelligenza umana, però era un po' per dare la misura, no, di questa psicosi che si sta generando intorno alla comunità cinese. Traffico. Cerchi un gestionale in cloud? Scarica l'app da fluentis.com e prova gratis per 30 giorni. Vi presenta "24 mattino". Io credo che la Juventus è quanto c'ha? 350 milioni di ingaggi che paga i giocatori, non c'ha bisogno dell'aiuto degli arbitri, ok? Lascia che la partita si vince o si perde nel campo, no, tramite i regali che ci fanno gli arbitri. Questo non è giusto per il calcio italiano. Vedi che il calcio italiano è veduto in tutto il mondo. Quando vedono queste porcherie, puri quelli fuori dall'Italia si disgustano di quello che vedono qui. Ed eccoci, Alvaro, c'è anche il polemicone di Commisso, il patron della Fiorentina, con questa lingua a metà, no? con questo filo di calabrese che entra nell'accento americano per i due rigori dati alla Juve, questa vittoria 3-0 della Juventus. Non ce ne libereremo mai di questa storia dei rigori alla Juve, delle polemiche sui rigori alla Juve, eh? Sì, a dispetto diciamo in generale dei numeri, questo è un po' da sempre così, forse la cosa più importante è dare il benvenuto a Commisso in Italia, perché ecco, da adesso possiamo dire che è un presidente italiano vero, totale. Ha fatto la sua polemica con la Juventus, quindi diciamo il diritto di cittadinanza lo consolida da questo punto di vista. Sì, diciamo qualche ragione ce l'ha ovviamente sul secondo rigore, secondo mio avviso, insomma, anzi, c'era anche parecchie probabilmente, però ricordiamo sempre che stava già perdendo per 1-0 la Fiorentina, e comunque insomma è una partita che la Fiorentina ha giocato anche abbastanza bene, ma che la Juventus ha sostanzialmente dominato. Però il tema è effettivamente proprio questo, cioè che alla fine sembra quasi che si abbia diciamo una sorta di certificato, no? di bollinatura, direbbero in altri ambienti, a partecipare a questo gioco soltanto quando si entra in questo tipo di polemica. La sottolineatura ci sta, e diciamo che forse tra virgolette i maggiori danneggiati potrebbero essere le altre squadre che competono con la Juventus in un campionato finalmente abbastanza aperto, e quindi l'Inter e la Lazio, che se vincesse mercoledì sarebbe a due punti dalla Juventus stessa. Però mi sembra invece da Inter e Lazio grandi polemiche non ce ne siano, anche perché credo che, se non sbaglio, proprio la Lazio sia la squadra che di rigori ce n'ha avuti più di tutti, quindi. Però insomma questo ci può stare, perché poi quell'elemento puramente numerico c'entra veramente poco e niente. In questo caso sicuramente qualcosa nell'arbitraggio non ha funzionato, a me non è piaciuto l'arbitraggio dell'arbitro di ieri, però insomma, alla fine eccessivo, ecco. Alla fine ci sta. Grazie Alvaro Moretti, vice direttore del Messaggero, per essere stato con noi. Grazie Alvaro, alla prossima. E noi torniamo dunque sul coronavirus, e lo facciamo nuovamente con Sergio Brusin, capo della sezione di risposta epidemica del Centro Europeo di Prevenzione e Controllo delle Malattie. Brusin, buongiorno, bentornato ai nostri microfoni. Buongiorno. E questo perché riteniamo che in questo periodo sia necessario dare il più possibile informazioni chiare e certificate ai nostri ascoltatori. E la prima domanda che le voglio fare è questa: nelle ultime ore si è parlato di un rallentamento del contagio. Siamo in grado di confermarlo o non siamo in grado di confermarlo? Beh, quello che è rallentato è il numero di paesi che riportano casi. Il numero di casi per sé non è proprio rallentato molto, questa mattina siamo a 17.000, quindi il rallentamento del numero di casi non lo vediamo. Abbiamo visto nell'ultimo paio di giorni un po' di rallentamento nelle esportazioni. Se questo è collegato alle misure drastiche che stanno prendendo in Cina, è un po' presto per dirlo, però è possibile. È possibile che sia collegato a quello. La questione della trasmissione asintomatica, della quale si è parlato molto nei giorni scorsi, ossia, per chiarire, la trasmissione senza che ci sia tosse, febbre, naso chiuso, starnuti e via dicendo, ossia quando il virus non è ancora esploso. Ne sappiamo qualcosa di più, Brusino, oppure no? Ne sappiamo molto poco, purtroppo, perché sì, ci sono stati alcuni rapporti che dicono che questo sia possibile. Questi rapporti non sono poi stati confermati. Siamo in una posizione in cui non abbiamo prove che questo accada, ma non abbiamo nemmeno prove che questo non accada. Quindi è una cosa che va studiata molto approfonditamente, perché cambierebbe completamente il modo di rispondere alla malattia. Naturalmente. Allora, altra questione, un po', se vogliamo, anche per tranquillizzare parzialmente, no? Sappiamo qualcosa in più sulle condizioni sanitarie e sull'età delle vittime, ossia le persone che sono morte, sappiamo se erano anziani, se avevano malattie già in corso e cose di questo genere? Allora, le persone che hanno avuto malattie, la malattia in modo grave, sono soprattutto persone più anziane e persone con altre malattie. Questo però non è che ci dica che sicuramente le persone sane non possono avere una malattia importante. Però se facciamo dei paragoni con SARS, per esempio, sembra proprio che la malattia sia meno impegnativa della SARS, anche la mortalità che vediamo sembra essere un pochino minore, quindi malattia sicuramente da prendere molto seriamente, ma non così grave come era la SARS. Nelle scorse ore sono girate da, anche da fonti autorevoli, alcune proiezioni basate su modelli matematici che indicavano una diffusione del virus molto maggiore di quella che conosciamo, cioè molto maggiore di quei 17.000 contagiati, cioè considerando il fatto che la malattia potrebbe in alcuni casi, no, ha dei sintomi che sono paragonabili più o meno a quelli di un'influenza, in alcuni casi poco meno, dicono questi modelli matematici, in realtà i contagiati sono molti di più, ma non lo sappiamo perché nemmeno si fanno vedere, se ne stanno a casa, si prendono un aspirino, quel che è, e via. Le cifre che ho visto pubblicate in giornali scientifici sono piuttosto credibili. Deve prendere in considerazione il fatto che noi stiamo parlando adesso di casi confermati. Per confermare un caso bisogna avere la persona in ospedale, bisogna fare il test, bisogna aspettare i risultati dei test, quindi il numero di 17.000 che vediamo adesso si riferisce in realtà a una realtà che avevamo qualche giorno fa. Nel frattempo sicuramente i casi sono aumentati. In più non sappiamo quali siano le capacità di testare che ci sono in Cina, quindi può anche darsi che non tutte le persone che hanno sintomi vengano testate. Bisogna stare un pochino attenti, perché tutti quanti questi modelli matematici no, hanno sempre un range di possibilità, no, sono ragionevoli, sono molto ragionevoli. Quindi nell'ordine delle decine di migliaia di persone potrebbero essere i contagiati veri e propri? È qualche cosa di molto ragionevole. Di molto ragionevole. Ascolti, quali sono i rischi effettivi in Europa? Ma in Europa per adesso abbiamo visto solo casi secondari in buona quantità solamente in Germania. Bisogna stare attenti perché all'inizio le epidemie cominciano sempre con pochissimi casi e quindi questo non vuol dire che non avremo una situazione più importante qui in Europa. Per il momento il contenimento sembra funzionare, ma bisogna lavorare sull'ipotesi che vedremo molti più casi. Cosa significa, Brusin, che il virus è stato isolato? Perché è così importante, posto che, come dicevamo prima, non è stato lo Spallanzani il primo a isolare il virus, ma è già avvenuto in Francia, in Australia, in Cina. Perché è così importante? È molto importante per due motivi. Se si ha il virus in laboratorio, si possono migliorare di molto i modi in cui si diagnostica la malattia e si conferma la malattia. Questo è una ricaduta veramente veloce e importante. L'altro è per un motivo di studio. Con il virus in laboratorio e con la possibilità di replicarlo, si possono cominciare gli studi per vaccini o terapie antivirali che senza avere il virus vivo in casa non è possibile fare. La ringrazio, grazie Sergio Brusin, anche per oggi, capo della sezione di risposta epidemica del Centro Europeo di Prevenzione e Controllo delle Malattie, che ha sede a Stoccolma. Ah, la sveglieremo altre volte, Brusin, la sveglieremo altre volte. Grazie dunque, ci fermiamo, GR24, ci ritroviamo subito dopo con la rassegna stampa.